la filologia. La quale intese, adesso qui insomma ragazzi, come si pare? Posso chiudere così? Entra in stand-by. È complicatissimo spiegare in tre parole, in una filosofia, insomma, diciamo. L'intento di Husserl era quello di salvare le ragioni della tradizione empirista, cioè delle scuole filosofiche che sostenevano la preminenza delle attività immediate, delle fonti immediate sensoriali come fonti dell'attività sensoriale come fonte immediata della conoscenza dell'uomo, questo è l'empirismo. L'empirismo, il motto dell'empirismo è nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, traduzione, niente tale l'intelletto che prima non sia stato nei sensi, nel senso, nella... mentre la opposta, diciamo, la corrente filosofica opposta, che poi non è una vera, ma neanche l'empirismo, non è una corrente, poi sono scritti, sono diversi, l'empirismo sosterrebbe invece una tesi opposta, cioè che non è la cosa non si può dire non c'è niente nel senso che non fosse prima nell'intelletto. Diciamo, il motto del razionalista è non si può capire un cazzo di quello che sta nei sensi se non si possiede un intelletto. Questo è. Che non è esattamente il rovesciamento grammaticale di quella frase, però insomma, il quale quindi sostiene la necessaria presenza di una serie di competenze intellettive, non diciamo intellettuali, intellettive per organizzare, per poter organizzare i dati sensoriali. Il tentativo di Kant alla fine del Settecento fu quello di, come dire, superare la dicotomia tra queste due posizioni. In realtà Kant rimane al fondo un razionalista un po' più avvertito, un po' più intelligente dei suoi predecessori e che deve molto all'empirismo. Kant sostiene, come voi sapete, che Hume, cioè uno dei maggiori rappresentanti dell'empirismo inglese del XVII secolo, Hume lo ridestò dal sonno dogmatico. E quindi, però, insomma, di fatto Kant non è un empirista, e la contrapposizione fra, chiamiamolo razionalismo, o forse potrebbe dire concettualismo come ed empirismo, direi che è proseguita per tutto il Novecento, insomma. Se pensate alle posizioni del circolo di Vienna e dell'empirismo storico e del primo Wittgenstein in contrapposizione alle posizioni Popper o dei, vedete che sono, c'è sempre praticamente empirismo e razionalismo, con una importante ripresa nel Novecento dell'innatismo, che è una variante che è un complemento della posizione razionalista, che evidentemente sostiene che, cioè, la posizione razionalista vuol dire che le strutture razionali del tuo, diciamo, cervello le hai almeno potenzialmente sino alla nascita, non dipendono dall'esperienza che tu fai, poi si possono colorare in maniera diversa, però non sono per tutti. E quindi, per esempio, una delle più famose teorie linguistiche del Novecento, cioè quella di Chomsky, è una teoria assolutamente razionalista e innatista, perché sostiene l'esistenza di una grammatica universale sulla quale tutte le lingue storiche si esemplerebbero di volta in volta, anche con tutte le varianti. Quindi vedete che insomma è una cosa che fra i vari tentativi di conciliazione di questa cosa ci sta la fenomenologia di Husserl, la quale sin dal nome fenomenologia, la fenomenologia nel senso di Husserl è ovviamente ben diversa dalla fenomenologia titolo di una delle opere più famose e anche più accessibili di Hegel. Senso Hegel intendeva il termine fenomenologia, non è stesso, ovviamente, quello in cui lo intende Husserl. Diciamo che per Husserl la fenomenologia è, diciamo, adesso lo dirò, ma una delle tesi di fondo di Husserl è che per conoscere il mondo bisogna riuscire a mettersi in una posizione di neutralità o di sospensione di tutte le strutture mentali precedenti che noi abbiamo. E per indicare questa attività di presa di distanza o di sospensione, Husserl usò il termine greco epoché, che non vuol dire epoca, ma vuol dire epoché, con la E finale accentata, che vuol dire appunto sospensione. Si potrebbe tradurre vagamente con sospensione del, diciamo, giudizio. Per conoscere il mondo, dice Husserl, bisogna attuare una sospensione del, diciamo, giudizio, quindi non, intendendo con ciò che non dobbiamo sovrapporgli tutta una serie di sguardi, diciamo, teorici che in qualche maniera spontaneamente, ma non tanto spontaneamente, in virtù della nostra storia individuale e collettiva, orienterebbero troppo la nostra lettura del mondo. L'altro punto fondamentale della filosofia di Husserl è l'intenzionalità. Diciamo, Husserl si basava prevalentemente sulla fenomenologia di Brentano, che era uno psicologo tedesco della seconda metà dell'Ottocento, nella quale, e qui è, diciamo, questo è, diciamo, la prima cosa che vi ho detto adesso sembrerebbe una posizione di tipo più vicina all'empirismo. L'intenzionalità invece è una strecciata verso il razionalismo, perché si sostiene che è impossibile comprendere qualsiasi attività della specie umana o degli esseri umani se non si tiene conto della finalità che hanno le azioni degli esseri umani. Quindi è un modo molto marcato di legare le strutture della, diciamo, ragione o della cognizione umana con l'aspetto morale, quindi con la libertà. Da notare che uno di quelli che viene considerato uno dei maggiori esponenti del razionalismo, cioè Spinoza, nel 600, aveva invece risolutamente negato che la libertà fosse a fondamento, la libertà tradizionalmente intesa, perché lui in realtà sosteneva che gran parte di quelle che noi pensiamo siano azioni libere sono in realtà determinate da altre cause che a noi sono sconosciute. Paradossalmente questa rivendicazione di Husserl dell'intenzionalità avveniva negli stessi anni in cui un oscuro medico viennese si inventava quella che la, diciamo, teoria che avrebbe di fatto poi nel corso del, diciamo, del Novecento anch'essa minato alla base o messo in discussione, diciamo, l'idea di assoluta arbitrarietà delle azioni umane, e cioè Freud con la sua psicanalisi, insomma la psicanalisi è la psicanalisi freudiana, ma anche poi quelle successive, insomma, sono dei tentativi di comprendere come l'azione cosciente dell'uomo sia in realtà, abbia, diciamo, conosca in realtà delle forti limitazioni dovute a cause non riconducibili alle strutture razionali o alla parte intellettuale cosciente, e neanche alla volizione, neanche alla parte, cioè neanche all'aspetto volitivo della, diciamo, coscienza. Quindi né quello intellettivo né quello volitivo potrebbero spiegare, secondo Freud, la gran parte dei nostri comportamenti. Quindi il battere così forte di Husserl sulla questione dell'intenzionalità, Benjamin nel passo che abbiamo letto l'altra volta polemizza esplicitamente con Husserl, perché dice non soltanto all'inizio, ma dove cazzo è? C'è una cosa contro l'intenzio. Sì, dice queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, lo stile, eccetera, eccetera, eccetera. E poi parla delle... Oh, no, ecco dopo. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. E questo frantumarsi è nient'altro. È la morte dell'intenzio, è la morte dell'intenzio che coincide con la nascita dell'autentico tempo storico, il tempo della verità. Quindi anche per Benjamin, nella storia e nel rivelarsi del vero significato delle immagini, della verità che ogni immagine porta con sé, c'è la negazione del movimento che invece vedeva alla base di tutti i comportamenti umani, cioè l'intenzione. Allora, comunque sia, in qualche maniera, anche con tutti i suoi, diciamo, limiti, anche la fenomenologia si presentava come un tentativo di superare la polarizzazione tra il momento della sensorialità, cioè il momento della corporeità, chiamiamolo così, nella vita umana, e il momento dell'applicazione di strutture generali all'attività conoscitiva. In qualche maniera chiunque voglia provarsi a superare questo iato, che in qualche maniera un po' tutte le teorie portano, tutte le teorie antropologiche portano con sé, tra sensorialità e, diciamo, ragione, tra particolarità dell'esperienza e strutture, diciamo, generali, si trova di fatto a dover delineare in qualche maniera o una dimensione, un territorio o qualche cosa di intermedio tra queste due, che sia il luogo, che sia non il luogo diciamo esclusivo, ma che sia una delle sedi più importanti della formazione dell'essere uomo in quanto tale, dell'essere umano. Quindi ogni volta che c'è un tentativo di superare questa dicotomia, che risale all'epoca di sistemazione della filosofia greca, insomma, Platone è quello che fonda il razionalismo e il mentalismo più rigoroso che ci sia mai stato, forse. E il suo principale discepolo, Aristotele, è quello che lo mette in crisi e che lo nega e che dice no, che tenta di rivalutare. Quindi è una roba vecchissima, l'uomo non si è mai liberato, l'uomo. La tradizione del pensiero occidentale. Per quello che noi conosciamo del pensiero orientale, ci sembrerebbe che loro non abbiano questa specie di dualismo. Io sospetto fortemente che il, diciamo, dualismo nelle tradizioni orientali faccia fuori da altre cose, però non voglio coinvolgerli, ne voglio, perché non ci ho pensato di sufficienza, però ho questo anago, trovo che non siano così monisti come noi. Cioè, il pensiero occidentale è attraversato da una continua tendenza al monismo, perché tutti sono insoddisfatti della diciamo, dicotomia, eccetera, e però di fatto da un riformarsi continuo di questa stessa dicotomia. Comunque, tra le cose più interessanti c'è appunto, ripeto, la visione, non ho fatto il codice definitivo, scusate. Prima finisco il pensiero. Allora, il pensiero logico era la fenomenologia, come ogni tentativo di superare il dualismo sensorialità-ragione, sensi-intelletto, concretezza dell'esperienza, astrattezza delle categorie, insomma, queste cose qua, è portato a individuare, come tutti, ripeto, una dimensione o un terreno, un territorio intermedio tra queste due. Quindi, come tutte o quasi tutte, o comunque attivi in qualche maniera incappano nella produzione e nel campo dell'attività e dell'esperienza umana che già si presenta da solo come un territorio intermedio tra queste due cose e che è appunto l'immagine. L'importanza dell'immagine, ecco perché Husserl dà così importanza alla questione dell'immagine e anche perché gliene dà bene, che tenta un'operazione diciamo analoga in modo differente, e vedremo poi perché Agamben negli ultimi tempi non fa altro che riprendere. È sempre così. L'immagine si trova al crocevia, cioè si trova in una dimensione, in una zona ambigua, intermedia tra le dimensioni. Perché? Perché ha un fortissimo legame, sia che si tratti in questo estremamente, diciamo, dare il nome di immagine sia agli oggetti, sia al quadro di Klee, sia alle immagini prodotte dall'uomo, qui fanno delle immagini, cazzo, pendono una sega e poi fanno delle immagini che qui pendono poco. Vabbè, insomma, diciamo, allora, chiamare sia queste robe qua, sia i nostri contenuti mentali, chiamarli più immagini, funziona, ha una giustificazione, perché obiettivamente si tratta di qualcosa che anche quando si tratta, come dire, puramente di immagini fantastiche, sia prodotte che, come dire, mentali, il diciamo realista, quello che ha il pregiudizio, diciamo, realista, ha sempre una obiezione contro le immagini fantastiche, contro il carattere totalmente arbitrario delle immagini fantastiche, e non ha torto, non ha tutti i torti, perché dice il diciamo, realista, dice sì, ma anche le cose di fantasia più sfrenata non sono che delle combinazioni, non sono che delle combinazioni diverse di elementi che già fanno parte della realtà o comunque dell'esperienza sensoriale. Quando qualunque, diciamo, mitologia, i greci ma anche altre mitologie, si devono inventare degli esseri soprannaturali, diversi dall'uomo, eccetera, cosa fanno? O prendono un essere umano e lo ingrandiscono a dismisura o lo rimpiccioliscono e quindi abbiamo nani e diciamo giganti, oppure prendono dei pezzi vari del regno animale e li ricombinano, recombinant, come la genetica, che ricombina dei pezzi diversi di cose già, diciamo, esistenti. Quindi è vero da un certo punto di vista che, diciamo, i legami dell'immagine con il mondo sensoriale, con le fonti sensoriali della, come dire, conoscenza, sono ovvi. È anche vero però che l'immagine ha sempre qualche cosa di più, cioè anche il quadro più banalmente e piattamente realistico, anche il ritratto della regina Elisabetta di Annigoni, sventurato epigono, però molto ben pagato del figurativismo classico in pieno XX secolo, d'altra parte fu una regina, non è che poteva partecipare a un ritratto da Miró o da Chagall o da Antonio Picasso, insomma, dovrebbero fare questo. Quindi anche le cose più sfacciatamente e piattamente mimetiche hanno nella pennellata, in una accentuazione di qualche cosa di particolare, hanno qualcosa che supera, che trascende, che va al di là del puro dato immediato. Quindi ogni immagine ha, poco o tanto che sia, un contenuto collegato con l'altro pezzo della... Adesso io sto un po', devo dire, lo so, prima che uno di voi mi critichi per questo, lo dico prima, è chiaro che sto facendo un po' di confusione tra l'attività razionale e l'attività fantastica. Diciamo, intendo per il momento sia nella fantasia più sfrenata sia nella più rigorosa costruzione di, diciamo, categorie astratte, c'è comunque un dato, entrambe in qualche maniera prescindono o dalla realtà o dalla esperienza più immediata, no? Allora, nelle immagini, le immagini sono delle candidate naturali per certi versi, per occupare, già occupano di fatto nell'attività mentale e nella produzione culturale umana, occupano uno spazio bastardo, intermedio, ibrido, tra il campo dei sensi e il campo, diciamo, dell'intelletto o della ragione. Adesso non stiamo a distinguere come farebbe Kant tra intelletto e, diciamo, ragione, sto facendo dei discorsi più a buon mercato, però in qualche maniera quello che mi interessa. E quindi non è un caso che, ripeto, per questo, anche per questo, la fenomenologia si trovi sul proprio cammino, sul proprio terreno, come dire, l'immagine. L'immagine o l'immaginazione o l'immaginario. In effetti l'emergere prepotente di questa nuova categoria filosofica o comunque interpretativa, che è quella dell'immaginario, termine che esiste soltanto in alcune lingue, tra cui, cioè, intanto esiste nella lingua in cui è stato inventato, cioè il francese, poi è facilmente traducibile in italiano, credo anche in spagnolo, in lingue come il tedesco e l'inglese non esiste un termine analogo a, diciamo, immaginario. Infatti, tradurre Baudrillard in inglese è sempre un po' complicato, tra le altre cose, perché non sa mai come tradurre immaginario, il termine è stato introdotto da Jean-Paul Sartre nel 1946, quindi, insomma, prima del 1946 non si parla di immaginario, da dopo il 1946, e in particolare italiano, l'80 e poi, forse se ne parla troppo e se ne scappano, ma comunque. Cioè, anche, come dire, l'immaginario è una dimensione anch'essa, diciamo, intermedia tra una attività, diciamo, di base sensoriale dell'uomo e una attività. Poi, vabbè, sull'immaginario, come forse voi sapete, diciamo, Lacan, che è il più geniale ma anche forse il più infedele continuatore di Freud, ha stabilito una dicotomia tra immaginario e simbolico, che oltre ad essere forse troppo, diciamo, rigida, vede comunque il primo, cioè l'immaginario, irrimediabilmente sottoposto al ferreo dominio del secondo, cioè il simbolico. Quindi poi anche l'immaginario è stato poi anch'esso a sua volta maltrattato, insomma, e tutto sommato l'accezione del termine, come si è costruita soprattutto negli ultimi 25-30 anni, è forse anche un tantino diversa da come l'aveva pensata in senso fenomenologico più o meno inizialmente Sartre, che era un più o meno fedele discepolo di Husserl, insomma, dal punto di vista di lei, poi a tante robe che erano più sue, insomma, filosoficamente a tante cose. Non ci stupiamo quindi di trovare ancora una volta l'immagine al centro degli interessi di uno dei filosofi che oggi in Italia sono più interessati alle dimensioni di transizione, di trapasso, alle ambiguità, e che, secondo me, sull'insegnamento fondamentale di Foucault da questo punto di vista, vede nelle zone di confine o nelle eterogeneità, nelle zone di cattiva o di difficile applicazione dei concetti, diciamo, generali, i terreni più fecondi per capire la normalità e per capire la pratica, diciamo, quotidiana. Questo filosofo si chiama Giorgio Agamben e in vari campi della sua, diciamo, ricerca è uno che privilegia sempre questo modo di operare, che è molto paradossale, ma come era paradossale quello di Foucault, che per spiegare come la società, diciamo, quali fossero i valori fondanti della società moderna, cioè per spiegare come il cittadino francese, tedesco, inglese, europeo dei secoli dal XVI al XVIII potesse sentirsi normale, potesse sentirsi pienamente padrone della sua vita e pienamente padrone del proprio destino, e anzi potesse costruire uno dei sogni di dominazione più potenti che sono mai stati concepiti da una cultura, e cioè quello dell'imperialismo, che è la storia dell'Europa, per soffrire tutto questo fu con non trovo di meglio che scrivere libri sul carcere, sull'ospedale, sulla follia, cioè è soltanto indagando il mondo dei reclusi o degli ospedalizzati o dei matti, cioè quelli che non partecipano, che non sono per forza di cose, forse non per loro, come dire, volontà, ma per concreti meccanismi sociali, non sono forze attive nel progetto borghese imperialista di dominio del mondo, però sono questi i, diciamo, soggetti e le storie che, come dire, per Foucault servono per spiegare la formazione discorsiva del pensiero moderno e del capitalismo e tutte queste cose qua. Analogamente, se Agamben ci vuole spiegare la politica e ci vuole spiegare, per esempio, i fondamenti del diritto moderno, tra i quali c'è, come tutti ben sappiamo, la proibizione di uccidere per i privati cittadini e non certamente per lo Stato, il quale si riserva il diritto quando vuole di farlo, ma diciamo comunque sia il diritto privato e pubblico, per quello pubblico uno potrebbe pensare che sia una cosa un po' ipocrita, ma comunque articolano in maniera, come dire, concreta e particolareggiata l'imperativo, diciamo, generale, religioso, biblico, poi anche questo era in larga parte una truffa, anche il che numero ha nei 10 comandamenti il non uccidere, non lo so. No, settimo non rubare, questo sono sicuro perché Allora è il primo, è è più uno sparare il sei. fuoco, è il sesto, allora. Se è uno sparare il fuoco si chiama settimo non rubare, per questo non lo ricordo, non perché abbia praticamente studiato a lungo i 10 comandamenti, anche se l'avessi studiato. Allora, il sesto comandamento, insomma, e lo fa la vedere, non riesco mai a fare le cose perché mi mancano le cose. Allora, quando Agamben ci vuole spiegare tutta questa roba qua, quindi tutta questa, come dire, ci vuole spiegare la nascita della politica moderna, la nascita della legge, della concezione giuridica, quindi di una separazione tra lo Stato, tra diciamo, la politica mondana, la politica laica e le vecchie, diciamo, religioni, e ci vuole spiegare il senso dell'uccidere, non trova di meglio da fare che di parlarci di una figura del diritto, dell'antropologia di Roma antica, che costituisce una eccezione rispetto a tutte queste cose, cioè quella di Homo Sacer. Homo Sacer è il titolo di uno dei libri più belli di Giorgio Agamben, in cui si spiega come questo uomo sacro, Homo Sacer, nel mondo latino, sia un soggetto sottratto a ogni regola politica, religiosa, giuridica, civile, di ogni tipo, e quindi rappresenta una sorta di vita selvaggia o di vita nuda, di vita allo stato, al grado zero, avrebbe detto Roland Barthes, e quindi è uccidibile da chiunque, e senza, ed è fra l'altro addirittura vietato però ucciderlo nelle forme sacrificali. Può essere ucciso, no, ma non può essere sacrificato. Cioè, se può essere, e quindi per questo si chiama sacer, per questo si chiama sacro, perché per una sorta di contrappasso, diciamo, linguistico, si chiama sacro ciò che non è sacrificabile, ciò che non può entrare dentro i riti della, diciamo, religione, come dire, diciamo, civile. Attraverso un libro un po' più lungo di questo, molto bello, che parte da questa bizzarra strana figura dell'Homo Sacer, diciamo latino, e arriva sino ai campi di concentramento, ai campi di sterminio di Hiroshima, no, di Auschwitz e di Birkenau, quindi diciamo, all'orrore del cosiddetto Olocausto. Agamben ci spiega queste cose partendo da altre robe. Nel gennaio di quest'anno Agamben ha pubblicato un curioso libretto, piccolissimo, di 50 pagine reali di scritto, compresi i parafernali, insomma, le pararobe, le pagine prima o dopo si arriva probabilmente alla sessantina di pagine, ma l'ultima pagina di testo è la 57 e la prima pagina di testo è la 7, quindi sono 50 pagine. In cui si parla, nell'ordine, di un video di Bill Viola chiamato Passion, di un trattato sulla danza del 400 scritto in Italia, degli studi di Warburg sulla tradizione delle immagini occidentali e di una particolare pagina del suo libro Mnemosine, che è un grande atlante delle immagini della civiltà occidentale, di un personaggio semi-autistico morto nel 72 a Chicago e che ha lasciato un bizzarro romanzo manoscritto completo di tavole disegnate da lui, delle origini del cinema, del passo di Benjamin di cui vi ho parlato la volta scorsa e che abbiamo discusso anche questa volta, di un libro di Friedrich Theodor Fischer sul simbolo, di Paracelso, oltre che di vari amici di Warburg, di Boccaccio e di Averoè. Vedo che alcuni di voi, non so, si dice il peccato ma non il peccatore, sorridono e giustamente possono pensare, ma questo è un truffatore, perché uno che in 50 pagine parla di cose così diverse e così disparate, e quindi probabilmente penserete da quello che vi ho esposto che questo libro non sia degno di essere letto. È un libro carissimo perché costa 6,50 euro per 50 pagine, mi rendo conto che uno non le vuole, preferirebbe non, non dire, buttare via. E io sono rimasto molto colpito da questo libro, l'ho letto a febbraio-marzo di quest'anno, dopo che è uscito, ci ho messo un po' di mesi prima di farmi maturare in testa qualche cosa. E adesso tenterò di spiegarvi perché mi interessa, ci trovo. In realtà il titolo a cui dà il titolo ninfa chiarisce in realtà che cosa, qual è, in realtà se uno non sa cosa sono le ninfe è un po' difficile che insomma capisca. Le ninfe poi secondo Paracelso, non neanche secondo la mitologia greca. I collegamenti, un paio di collegamenti sono un po' forzati, non lo ammetto, tipo quello al libro di Henry Darger, però insomma più o meno parla di ninfe pure lui, quindi probabilmente insomma l'asse fondamentale teorico di questo libro è Warburg Benjamin, d'altra parte sono due amori di però i testi più interessanti, cioè quelli che chiariscono il titolo e le intenzioni di Agamben sono invece Paracelso e Boccaccio, cioè quelli che parlano delle ninfe davvero. Warburg naturalmente parla di ninfe, ma il problema è che Warburg parla di ninfe. Allora dunque, Warburg, chi è Warburg? Tutti sapete chi è Warburg? No. Forse non lo so bene manco io, perché non è che mi rendo conto di fare lezione su qualcosa che si conosce così poco, però io faccio lezione sempre su cose che conosco poco, quindi questo purtroppo dovete tenere, è la mia condizione di base. Allora, Abby Warburg fu il fondatore tra nei primi anni del secolo, che poi non so, diciamo, siamo morto negli anni 30, di un mastodontico, insomma, forse anche un po' più volo, non so, insomma, progetto di organizzazione sia teorica che pratica del mondo dell'immagine nella cultura occidentale. Ed è il fondatore di una scuola chiamata iconologia, di un modo particolare di leggere le immagini chiamato iconologia. In quale modo si differenzia fondamentalmente, vedete che, sia da una lettura, come dire, storicistica, e storicistica nel senso di positivistica, insomma, dell'immagine. Questa immagine è stata composta quest'anno, l'ha fatta questo tale signore, è stata fatta con la tale tecnica, con la tale macchina fotografica o con i tali pennelli o col tale mulino o col tale carboncino, come cazzo sia. Notate che non sto parlando di computer, mi rendo conto che molte di queste cose, però insomma, concettualmente, se non abbiamo capito cosa è successo prima, difficilmente capiremo anche cosa si può fare con il computer, cosa si può fare, cosa non si può fare. Va bene. Questa immagine quindi c'ha questo dato, c'ha quest'anno di composizione, l'ha fatta questo autore, questa è la tecnica, questo è il soggetto di questo autore, questi sono i legami tematici e stilistici di quest'opera con le altre coeve o passate o presenti. Questa è la lettura positivista dell'immagine. Vi convince? C'è una roba così? Sì, c'è una roba. Quasi tutti i critici d'arte contemporanei non sono capaci altro che di questa lettura delle immagini, però naturalmente se ne vergognano, perché è una roba bruttissima essere chiamato positivista, forse è meno brutto di quello che potete pensare. E quindi a questa, diciamo, lettura così povera, per non dire di peggio, così povera, così riduttiva, di qualunque immagine, che sia opera d'arte o meno, il critico d'arte sovrappone in genere un discorso spesso molto articolato, a volte difficilmente comprensibile, perché altre volte francamente delirante, e però poi se vai a vedere che cosa, va anche detto che l'arte contemporanea in gran parte non è più fatta di immagini, ma è fatta di situazioni o di comportamenti, questo è vero. Però dubito che chi legge le immagini in quel modo lì possa leggere in maniera ricca anche le situazioni o i comportamenti, no? Allora, questo è il côté positivista. Poi c'è invece il côté, come dire, essenzialista. Perché qui bisogna accennare ad un'altra caratteristica delle immagini. Delle immagini, guardate che dico immagini, non dico opere d'arte, immagini, quindi anche una foto pubblicitaria su di una rivista qualunque, insomma, o anche immagini. Da Lascaux in poi, cioè da quando conosciamo le immagini, la prima che conosciamo è quella di Lascaux, quindi, che un po' arbitrariamente noi abbiamo annesso alla storia, diciamo, dell'arte, mentre forse c'è un po' di arbitrarietà, un po' di più che non annettere alla storia dell'arte tutta la posizione iconica e immaginale della cultura greca, anche se i greci non c'erano una idea di arte che era molto lontana dalla nostra, o forse non avevano nessuna idea di arte, però diciamo ci sono più ad annettere a una ipotetica storia dell'arte il Partenone di quanto non ne abbiano le pitture di Lascaux. Le immagini hanno sempre, diciamo, avuto un potere evocativo più forte e più immediato di quello della parola. Anche la parola, naturalmente, la parola ha quasi solo potere evocativo. La parola è una vibrazione dell'aria e quindi. Però il potere evocativo della parola deriva da una serie di concatenazioni di associazioni mentali abbastanza complessa. Non parlo della comprensione della parola parlata da parte di particolari ceti di una certa società, quindi da parte di intellettuali. Parlo da parte di qualsiasi essere umano. Qualsiasi essere umano, per leggere la descrizione di un palazzo e evocare nella propria mente un'immagine mentale corrispondente a quella descrizione, ha bisogno di una serie di mediazioni molto forte, molto spessa. Fa nel proprio cervello, nella propria mente, una serie di attività mentali molto complesse, la gran parte delle quali, anzi la quasi totalità delle quali non coscienti, sottratte alla coscienza, però la fa. Il potere evocativo che hanno le immagini è molto più forte. Tanto forte è questo potere evocativo che, ne ho parlato prima non a caso, il primo essenzialista della storia della filosofia, cioè Platone, quando deve parlare delle cose più generali che ci siano, più immateriali, la causa, la vera causa, il vero regno di ciò che conta davvero, da cui il mondo materiale sarebbe una imperfetta e cosa, copia, a che cosa pensa? Come è fatto l'iperuranio di Platone? L'iperuranio di Platone è popolato di immagini. Eidos, immagini, idea, eidos, vedere. D'altra parte anche teoria deriva da un verbo greco che è collegato con il vedere. Anche l'attività più astratta che ci sia da parte dell'essere umano, costruire concatenazioni di pensieri, cose. Cosa? Infatti ci sarebbe da dire che i ciechi non possono fare teoria, non potrebbero fare teoria secondo i greci. Naturalmente qualsiasi buon buon senso ti dirà che ovviamente si tratta nel caso di teoria di un uso già ampiamente metaforico anche nella cultura greca. Si tratta se tu fossi una buona platonica, cosa che evidentemente non sei, ti sarebbe venuto in mente subito che esiste un occhio della mente che simula deriva, di cui il nostro occhio mentale, di cui il nostro occhio fisico non è che una pallida copia. E quindi anche il cieco può accedere con le sue facoltà mentali, diciamo, superiori a questo occhio della mente, anche se il suo occhio fisico, per una serie di deprecabili accidenti storici, non funziona per niente o per tutto. Quali esperimenti? Che i ciechi, allora, che i ciechi abbiano la capacità di, come dire, di costruire immagini mentali è del tutto ovvio. Sì, tu dici, certo, guarda, attribuita all'amigdala. Lì sarà stato più che altro la dose massiccia di LSD che gli aveva dato, della bambina, forse, non so, bisogna chiedere a Timothy Leary che purtroppo è morto. Comunque, può essere, adesso non lo so. Non... Allora, per, diciamo, tornare a noi. Ecco perché la tentazione, cioè il potere evocativo dell'immagine è così forte che l'immagine diventa la candidata ideale per un essenzialista. Chiunque crede nella esistenza di cose misteriose chiamate essenze, l'essenza, il bene, il bello, la natura umana, la ragione, la follia, la virtù, la costanza, la fedeltà, tutte queste cose bellissime che noi crediamo, l'essenza dello Zeitgeist, l'essenza del tempo. Ogni essenzialista, ogni persona convinta che la, diciamo, realtà si spieghi sostanzialmente con delle cose chiamate essenze, che sarebbero appunto una variante poi, insomma, delle idee platoniche, insomma, tenderà a vedere nelle immagini la manifestazione immediata di una essenza. La lettura husserliana delle immagini è fortemente tentata di cadere nel. piace, che l'intenzione di Husserl sia molto più buona, tutti voi sapete qual è il posto che le cui strade sono lastricate di buone intenzioni, che è l'inferno, quindi non è che le buone intenzioni si salvano da un cazzo, quindi non è detto che avere le buone intenzioni serva a un cazzo. Quindi, come dire, il teorico, colui che si propone di fornire qualche spiegazione generale, di fronte alle immagini sarà spesso tentato di prendere questa strada, di vedere nella immagine la manifestazione di una essenza. Una manifestazione più immediata e più, virgolette, semplice o più immediata di quella che si ha con la parola. Certamente anche la parola è, può essere scomoda, anzi, in fondo, volendo essere tantinello positivisti e nominalisti, che cos'è l'essenza se non un insieme di parole che descrivono un oggetto, non è niente di più. Spesso si tratta di un, se non proprio di un fraintendimento, di una pretesa un po' eccessiva, quella che questo insieme di parole utilizzato dagli esseri umani per descrivere qualche cosa corrisponda a un qualche misterioso oggetto realmente esistente chiamato essenza, no? Forse sono solo le parole che noi usiamo per, ecco, quindi è chiaro che la parola è collegata con l'essenza, ma la parola in quanto fenomeno temporale, in quanto fenomeno, e la scrittura certamente cerca ha cercato di svincolare la parola da questo limite, ma anche la migliore scrittura non può forzatamente essere una scrittura alfabetica, essendo incatenata alla fedele riproposizione, alla fedele trascrizione dei suoni della catena, diciamo, parlata, inevitabilmente porta con sé un certo limite temporale. Notate che da sempre il tempo è la brutta bestia di tutti gli essenzialisti e di tutti gli universalisti. Ogni volta che uno vuole convincerci che c'è un mondo invisibile, ideale, che la cosa più importante nel mondo, la cosa più importante nella, diciamo, realtà è la sua essenza, concepisce sempre l'essenza come qualcosa di sottratto al tempo. Il tempo è la prigione della sensorialità e anche, potrebbe pensare l'essenzialista, delle attività intellettuali che lui considera inferiori. Il tempo è una prigione, no? Cioè noi siamo condannati a sentire un suono dopo l'altro, a fare un'azione dopo l'altra. La nostra vita si svolge in un ciclo temporale tra la nascita e la morte. Guarda un po', fra tutte le opere dell'uomo l'immagine è quella che più sembra sottrarsi alla dimensione temporale. D'un botto, ha lì qualche cosa, c'è tutto. C'è. Se cambiamo intorno all'immagine, in realtà anche l'immagine cambia, non è che stabile. Ah, certo. Questa lo dice, queste cose le dicono i malevoli critici dell'essenzialismo, quelli persi e chiusi nella infelice prigione del corpo da cui l'uomo dovrebbe liberare il suo spirito. Così pensa l'essenzialista, così pensa lo spiritualista. Il tempo è una brutta bestia per tutti gli spiritualisti, tutti i. Poi quando uno è intelligente ammette anche e confessa il proprio scacco. Ma chi fu che scrisse quando nessuno me lo chiede credo di sapere cosa sia il tempo, ma quando qualcuno me lo chiede non lo so più. Sant'Agostino, fu Sant'Agostino che disse questa frase. Quindi, cioè, Sant'Agostino era una persona intelligente, pur essendo cristiano, insomma, che non è più sempre le cose vanno d'accordo, però questo indica che, cioè, capito, chiunque vuole ragionare sull'eterno, cioè, Dio è l'eterno, lo spirito è eternità, lo spirito c'è, cioè, che cazzo ti frega del prima o del dopo allo spirito? Lo spirito assoluto di Hegel, quando finisce la storia di Hegel, finisce anche il tempo, finisce tutto. Quando la storia naturale del pianeta Terra, che culmina nella storia della specie umana, che chissà che cazzo gli è venuto in mente, ma che dobbiamo riassumere cosa? Se siamo noi, siamo i riassuntori di chi? Vabbè, comunque Hegel così pensava. Dice, allora, finisce il mondo, finisce la storia, e finisce anche il tempo, ma questa roba è, ancora una volta, sono gli ebrei che hanno concepito una fine del tempo. Per la gran parte delle culture la fine del tempo è, e credo per ogni persona di buon senso, la fine del tempo è impensabile. È impensabile che il tempo finisca. Dove? Come può finire il tempo, Dio Boro? Sarà una diversa modalità di esperire, di sperimentare, di pensare al tempo. Ma ogni organismo vivente non può non avere il tempo nella propria. La vita è un processo che si svolge, che ha un inizio e c'ha una fine. E c'ha un inizio e c'ha una fine e da origine si incatena e si intreccia con altre origini e altri fini. Ma come si fa? Questo è il tempo. Questo è il tempo. La superbia di un progetto intellettuale che ostinatamente, cazzo, disconosce la ma sì, non, io non so, cioè ogni, no, non sempre, ogni tanto quando penso agli spiritualisti mi diverto con gli uomini, ma perché non è una roba senza fondamento, insomma, cioè senza fondamento, cioè tu paghi dei prezzi per essere uno spiritualista, puoi anche esserlo, ma paghi dei prezzi intollerabili sul piano del buon senso, della cosa, e anche, secondo me, del divertimento. No, a fare poi certamente, ma lo so anch'io che ci sono i cardinali che si chiappettano i bambini e i presidenti di comitati contro la droga che fanno delle righe di coca così lunghe, lo so anch'io, va bene. Però se uno vuole essere coerente, no, se è un prete non, diciamo, non dovrebbe chiappettare i bambini, non dovrebbe neanche copare le signore, se è per quello. E se fa il moralista non dovrebbe tirare i coca, specialmente se è iscritto a un partito cattolico come un ticino, dovrebbe tirare la coca, secondo me faceva bene, non è che io ce l'ho contro chi tira la coca, neanche chi contro si scopa delle signorine, però se poi vai in Parlamento e vota le leggi repressive contro la droga, cazzo, sarei un puttano di quasi pronto, allora penso di qua che mi sbaglio, che sia un modo di pensare ingenuo, me ne rendo conto, ma insomma. Allora, così è per gli spiritualisti, cioè, loro sono spiritualista, può anche dare una spiegazione, dice, c'è questa roba qua che spiega tutto, ok, spiega tutto ma ti ammazza a metà degli anni, cioè è come la cura che curi la malattia ma ammazza il malato, lo spiritualista spiega il mondo ma ammazza il 90% delle robe che fanno, diciamo, gli uomini, cioè intanto gli toglie ogni come valore ed ogni significato, perché se c'è solo l'idea, se c'è solo, allora che cazzo stiamo a fare qua, andiamo tutti in colonne nel deserto, siamo gli stilisti, pensiamo tutto il giorno e non facciamo altro. Allora, però adesso chiudo le cose. Cioè, vuol dire il tempo, no? Cioè. Quindi anche quella dell'esame dell'immagine di Klee, fatto da Benjamin, è soltanto un'altra maniera di pensare il tempo. Certo, ma infatti Benjamin si guarda bene, Benjamin che è nutrito di pensiero ebraico sino in fondo, che è un messianico eccetera, però è un laico e quindi non vuole, anzi, però dice, poi è la stessa teoria, che è simile alla teoria di Hawking, che poi stesso lui dichiara sbagliata, quella per cui il tempo procede al contrario. E lì è un po' più complicata la storia di Hawking, perché vabbè, lì c'entrano delle equazioni matematiche, no? è possibile, sì, ho capito, no, ma però Benjamin lo dice in modo esplicito nel frammento famoso che ormai dovrebbe essere a conoscenza di tutti. In quest'ora, cioè nell'ora in cui l'immagine arriva alla sua conoscibilità, la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Carica di tempo, non che il tempo non esiste più. Quindi la lettura beniaminiana dell'Angelus Novus di Klee è una lettura carica di tempo, c'è un sacco di tempo nella lettura, perché ti dice delle cose, addirittura Benjamin si inventa una storia, si inventa un processo, si inventa il vento che nasce dal paradiso, le rovine che si accumulano e la causa del fatto che l'angelo sia costretto ad avere le ali spiegate, cazzo, più tempo di così si muore, lì c'è tempo, La lettura, l'Angelus Novus di Klee evidentemente gli è apparso come una di quelle. Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'ora in una costellazione. Una costellazione. Cos'è una costellazione? È un insieme di stelle nel cielo. Sembrerebbe quanto di più atemporale o antitemporale ci sia. Ma perché è un momento in cui, in quel momento in cui quell'immagine d'un botto, con una discontinuità, con un salto, acquista un senso, diverso forse dalla intenzio di Klee. Non gliene frega niente a Benjamin che Klee volesse dipingere quel quadro con un te. Non c'entra niente l'intenzio di Klee in quel quadro. Quel quadro appare a Klee in quel momento come quell'altra cosa. Quello è il senso per Benjamin, evidentemente, di quel quadro di Klee. E in quel momento, in quell'istante, ciò che è stato si unisce fulmineamente con l'ora. In una costellazione, poi dopo Agamben cita la stessa cosa e quindi poi fa un altro cortocircuito, diciamo mentale. Ancora una volta, anche Benjamin, vedete, in quel frammento lì, frequenta una di quelle zone, una di quelle aree dell'esperienza che non sono ancora chiuse dentro una concettualizzazione precisa, che non fanno parte né di una cosa né dell'altra, che sono in un guado, che sono in una, che non hanno una essenza specificata. Perché quando di una cosa si può dire che ha una essenza, questa cosa è praticamente già bella che morta. È lì, pietrificata, ossificata, la mia essenza. Se io pensassi mai che c'è un'essenza di Carolina, mi suiciderei. Non ci può essere, ma di ogni essere umano, non esiste un'essenza. Che è l'essenza? La cosa interessante che hanno gli esseri umani è poter essere tante cose, potere, avere la potenzialità, avere la voglia e la possibilità di cambiare, di andare verso altre strade, di sperimentare altre cose. Se c'ho un'essenza, non la potrò mai fare. Se io fossi davvero un professore, se la mia essenza fosse quella di professore, cazzo, sarei veramente, mi annoierei io da solo a stare con me stesso durante le 24 ore, fortuna penso di non avere un'essenza, di non essere essenziale. Cioè, il progetto della mia vita è un progetto, no, perché l'ho fatto del tutto inconsciamente. Inconsciamente mi sono accorto dopo 60 anni e passa che non facevo altro che cercare di tenere aperte delle possibilità per me. E poi alcune si realizzano, la gran parte di quelle a cui uno pensa o di quelle che uno vuole non si realizzano, è vero, però il fatto di avere diciamo, di avere delle possibilità, delle potenzialità, è ciò che rende, come diceva questo francese, Filou, l'arte è ciò che rende la vita più interessante dell'arte. La possibilità è ciò che rende la vita più interessante della possibilità. Adesso non si può fare esattamente. Comunque è la possibilità che rende, è la possibilità, ed è per questo che ogni volta che si indaga un fenomeno, se lo si vuole indagare davvero, si vuole fare da qualche parte, ma è difficile fissare e andare a vedere le cose che già, cioè gli ambienti, l'ambito fenomenico che già sappiamo bene cos'è, no? Sappiamo bene cos'è, sappiamo già addirittura la sua essenza. Che cazzo studiamo più sappiamo l'essenza di una cosa? Fine, finito, abbiamo finito. Se esiste l'essenza, ogni discorso è bello che è finito, non c'è più niente da studiare se di una cosa conosci l'essenza e sai veramente com'è fatta. Diventiamo giovani scrittori. Uno diventa quello che gli pare, non più, ma ti sono proibire a uno di diventare No, no, facendo così sì, si diventa certo, diventi, scrittore. hai la cosa. Mentre, allora, se invece l'essenza non c'è, non l'hai ancora trovata, non so, forse ci sarà quella cosa lì, cazzo ne sappiamo, non so se ci sia, non so. Uno è più, come dire, garantito sapendo che non c'è, cioè sapendo che ciò che è interessante dei processi è la loro essenza, no, non posso dire essenza, è la loro natura, è la loro processualità, non diciamo cos'è la caratteristica che fa di un processo, tu dici è un'essenza, non lo so, insomma, è la caratteristica fondamentale, è quella di essere un processo. Un processo è qualcosa che è in transizione, un processo è qualcosa che diviene in continuazione, è come, insomma, Divino. è come l'essere il vecchio dibattito tra essere e divenire. Una volta Deleuze scrisse che l'essere sono come gli alberi e che il divenire è come l'erba che cresce tra gli alberi. E poi commentò, cioè, sai, gli alberi sono importanti, ma se non ci fosse l'erba non ci sarebbero gli alberi. Gli alberi non potrebbero crescere dove non c'è l'erba. Quindi probabilmente se uno deve scegliere tra l'essere e il divenire, sceglie di venire. Intanto perché si diverte di più. Ma poi perché obiettivamente è più rilevante. Come dire, divenire è quello. Infatti, cioè, Deleuze si è sforzato per tutta la vita di sottrarre il concetto di divenire a una idea storica. Per lui il divenire non è partire da una cosa e arrivare un'altra parte. Quando lui dice divenire donna, divenire animale, divenire, indica un processo che può rimanere indeterminato, non compiersi mai. È un processo empatico. Può anche avere la cosa empatica, ma è il riconoscere dentro. Allora, divenire donna per un maschio vuol dire riconoscere dentro di sé una parte, come dire, femminile, nella polarizzazione dei sessi, che è un dato, come dire, biologico, ma che poi nella ossificazione, nella essenzializzazione che ne ha fatto la società, sono poi diventate invece delle gabbie, diciamo, sociali che ti ingabbiano e contro cui, diciamo, storicamente una delle cose contro cui è nato il femminismo, diciamo, moderno nel Novecento è stata la rivendicazione delle donne di non essere ingabbiate in questa essenza, diciamo, femminile, nel senso pratico poi, cioè in questo insieme di ruoli affibbiato sulle spalle della donna che come dire, vedeva comunque subalterna nei confronti nella divisione del lavoro, diciamo, tra maschio e femmine all'interno della, diciamo, società. Allora, la polarizzazione, mentre invece la polarizzazione sessuale, cioè come dire, la componente biologica del processo sessuale, nasce da un potenziamento in una, cioè il sesso nasce dal fatto che ci sono una serie di esseri viventi che non hanno il sesso, che non sono sessuati. Nelle piante il sesso non implica piante maschie e piante femmine, addirittura in alcune piante indica la nascita di organi sessuali maschili e femminili nello stesso fiore. Al massimo, nella stessa pianta, il fatto che la pianta è stato separare i due sessi, uno in un fiore e l'altro nell'altro, ma in molte altre piante ci sono addirittura i fiori bisessuali, vertebrati, eccetera, sono tutti asessuati. Il sesso nasce in alcuni insetti, ma come specializzazione particolarissima di certi, per cui per esempio negli insetti sociali la gran parte degli insetti sono asessuati. Le le api e le colonie sessuali sono una infima minoranza. E poi dilaga con anfibi, pesci e fino con tutti i vertebrati in qualche modo, insomma. Allora, il sesso è una dotazione biologica che implica semplicemente l'accentuazione di caratteri biologici particolari, l'accentuazione polarizzata in due parti diverse. Ma non è che gli uomini e le donne degli esseri umani come dei leoni, cioè, che abbiamo due biologie totalmente diverse, cazzo. Abbiamo biologie simili, anzi, in gran parte coincidenti, con alcune piccole. E quindi gli ormoni femminili sono presenti anche nel corpo maschile e quelli maschili anche nel corpo, diciamo, femminile, tant'è vero che sono le donne sono barbute e gli ermafroditi, perché è così, perché capitano delle cose di così non fa. Allora, culturalmente, come dire, l'irrigidimento in una, allora si tiene conto, come ovvio, che questa, come dire, polarità è quella che consente la perpetuazione della specie, oltre che una serie di pratiche che io trovo mediamente divertenti, insomma. Ma Quindi, vabbè, potrebbe però. essere, come tu dici, c'è una sua divisione, e questa distanza fosse un prodotto culturale. Un prodotto culturale, certo, Solo un tanto prodotto certo, culturale. certo Cioè, la filosofia della differenza è essenzialista, quindi, in questo senso. insomma, nel momento in cui l'opinionista di un giornale di destra o di un coso cattolico mi dice, ma l'uomo è così e la donna è così, il ruolo della donna è questo, la funzione della donna è questo, l'essenza della donna è quella, l'essenza dell'uomo è quello. Tu prendi un dato storico, culturale, il prodotto di una, diciamo, cultura e lo irrigidisci, dici no, questa è l'essenza. Cioè, ma da quando in qua? Cioè, allora, la divisione, come dire, produttiva del lavoro diventa divisione sociale solo con il Neolitico. È l'agricoltura che comincia a porre le condizioni perché le ovvie divisioni, differenze che ci sono tra uomo e donna, tra maschio e femmina, derivate dalla cosa biologica, dal fatto che è la femmina della specie, quella che fa la gravidanza e quindi poi ha dei periodi più o meno brevi in cui è meno laser, è quello che crea una differenza. Quindi anche nei gruppi di cacciatori-raccoglitori c'è una differenza, c'è una divisione del lavoro, per cui a caccia in genere vanno più i maschi, però sono molto il quadro delle, insomma, culture, io poi no, non è che ho letto, però insomma, per le poche cose che ho letto, ci sono comunque culture in cui per esempio i maschi raccolgono tanto quanto una casa, non è che sia, però diciamo genericamente, ma diciamo, fino a tutto il Paleolitico, nel Paleolitico questa divisione non si è mai tradotta non ha mai avuto un risvolto politico, cioè, non si è mai tradotta in una divisione sociale e quindi nella presa del potere da parte di uno dei due sessi. I maschi prendono il potere con la civiltà, cioè con